Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 2 aprile 2015. Meno inquinamento da agrofarmaci grazie anche al progetto TOPS. Gli agricoltori italiani sono oggi più virtuosi nell'utilizzo degli agrofarmaci. Lo certifica l'Unione Europea, che nel 2009 aveva fissato l'obiettivo dell'uso sostenibile di fungicidi anticrittogamici con la direttiva 128, lanciando diversi progetti di formazione rivolti agli operatori del settore. Il progetto TOPS, in particolare, sostenuto da Agrofarma e coordinato nel nostro paese da Paolo Balsari dell'Università di Torino, ha trovato diffusione a partire dal polo formativo ospitato dalla storica azienda vitinicola piemontese Fontana Fredda. Obiettivo della formazione di TOPS è stato insegnare le buone pratiche per ridurre l'inquinamento puntiforme, cioè per esempio quello nelle fasi di stoccaggio, conservazione dei prodotti o di lavaggio macchine, fasi che sono responsabili per l'80% della possibile contaminazione delle acque. Fin qui la notizia del 2 aprile 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. Alberto Grasso, enologo ed agronomo, è coordinatore dell'area agronomica della Fondazione Mirafiore di Fontana Fredda, che sta ospitando il progetto europeo TOPS. Il progetto TOPS ha avuto come esito finale quello di definire delle buone pratiche agricole e quindi definire in ogni fase dell'utilizzo dell'agrofarmaco, dal momento dell'acquisto fino proprio all'ultima fase in cui devono essere smaltiti i contenitori vuoti degli agrofarmaci, come procedere, come farlo in maniera da evitare inquinamenti. La prima fase che deve essere molto spiegata agli agricoltori è quella del trasporto, cioè il momento in cui vanno dal rivenditore e acquistano l'agrofarmaco e lo portano in azienda. Quello è un momento critico, perché comunque si è in presenza di un contenitore contenente agrofarmaco nella sua soluzione pura, quindi in una concentrazione molto molto elevata. Il rischio di incidente può essere molto molto alto e soprattutto molto dannoso. Poi vi è un'altra fase importantissima, che è quella dello stoccaggio. Cioè l'agrofarmaco, una volta arrivato in azienda, deve essere collocato in un ambiente idoneo. Il prodotto deve essere all'interno del contenitore o di un armadietto chiuso, nelle quali vengono indicate tutti quelli che sono i pittogrammi, sono presenti tutti i pittogrammi di rischio, e quindi fare un minimo di attenzione anche da questo punto di vista. Dopo il momento dello stoccaggio c'è chiaramente tutta la fase del prima e del durante l'utilizzo dell'agrofarmaco, quindi il momento della preparazione della miscela, come l'agrofarmaco deve essere introdotto all'interno della botte per i trattamenti, come deve operare l'operatore, quali indumenti deve indossare. Successivamente c'è tutta la gestione dei reflui, cioè tutta la gestione di quelle acque che o bene o male sono state inquinate dall'agrofarmaco. Il progetto TOPS ha previsto tutta una serie di accorgimenti anche in questo ambito e propone alcune soluzioni che sono sicuramente molto molto interessanti. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.